Salve a tutti, sono Stefania e sono qui in Radio Big World insieme naturalmente al popolo di Barabba. Le mie riflessioni questa settimana sono davvero tante, ma non perché sono una persona riflessiva, perché probabilmente sono in pensione, molto del mio tempo è libero e quindi mi dedico alla riflessione per non annoiarmi. Ora, a parte questo, stavo riflettendo a proposito del popolo di Barabba che per tutelare la nostra vita in macchina o in motorino c'è bisogno di una multa, cioè ci multano coloro che non si mettono le cinture di sicurezza, le quali cinture di sicurezza servono per salvare la vita. E c'è gente che non se le mette perché pensa di fare chissà che cosa. Ci multano se non abbiamo il casco, perché il casco ci salvaguarda la vita. Ora, pensate voi che grande paradosso sia quello. Io, Servoli Stefania, entro nella mia macchina e dico: guarda, non mi voglio mettere la cintura di sicurezza perché voglio fare un dispetto a chi? Il dispetto più grande lo faccio a me stessa, perché se succede qualcosa e non ho la cintura di sicurezza, probabilmente o vado al creatore o peggio rimango storpia oppure. Ecco, questo è uno degli aspetti del popolo di Barabba. Quindi la mia riflessione è: siamo tutti cretini? Siamo tutti dei popoli di Barabba? Oppure? Io a questo non so dare una risposta, perché la maggioranza delle persone che io vedo in macchina o sono senza cintura o stanno al telefonino. Anche questo grande argomento, soprattutto in autostrada, ma anche in città, o leggono peggio, leggono il giornale che ha bisogno di essere sfogliato, quindi una mano serve per sfogliarlo, cioè delle cose davvero inaudite, eppure credetemi, io le vedo, sono stata a Roma ultimamente, Roma è piena di questi episodi, ma non solo Roma, ma anche Montevarchi, su 10 macchine che passa, 9 persone sono al telefonino. Creano difficoltà non solo per se stesse, creano dei problemi non solo a sé, ma sicuramente anche a un altro povero cristiano che non c'entra nulla e che probabilmente, se loro sono distratti, avrà la peggio. Ora, vi sembra una cosa normale questa? A me no. L'altra riflessione che facevo era quella delle automobili. Siccome per fortuna o non per fortuna, non so, insomma, io viaggio spesso. E in autostrada sapete bene che non possiamo andare oltre 130 km orari, perché altrimenti anche lì multe, perché ci sono i tutor, che ora sembra ci sia una diatriba, li devono togliere perché colui che li ha inventati, insomma cose che ora non vi sto a raccontare, abbiamo le multe. Eppure non c'è una macchina che vada entro i 130 km orari, credetemi, siamo io e mio marito e poche decine di altri, basta. Poi siamo sorpassati da questi bolidi, da questi SUV sempre più grandi, sempre più potenti, sempre più inquinanti, che vanno a oltre 150-160 km orari. Quindi anche qui, che grande contraddizione, cioè ci sono dei limiti di velocità per salvaguardare la nostra vita, perché non siamo capaci di salvaguardarcela da soli, e continuano a fare queste macchine di così alta potenza, sempre indirizzate al popolo di Barabba, perché sanno bene a chi devono venderle queste macchine, al popolo di Barabba. Altre riflessioni sono un attimino più profonde, più complesse sicuramente, e non fanno parte, diciamo, di quel popolo di Barabba che io, così come lo intendo io. Ho avuto l'opportunità di andare ad un incontro con un siriano profugo, venuto via dalla sua terra, lo sappiamo tutti in che situazione si trova la Siria attualmente. E parlando con lui, Naturalmente vengono spontanee le domande, ma è vero quello che ci fanno vedere in televisione, è vero quello che dicono su internet, perché sapete che oggi la comunicazione, insomma, bisogna prenderla un attimino con le pinze, non tutto è vero quello che ci propinano. Detto da una persona che ha vissuto in quella terra e che ha vissuto, quindi ha subito la guerra, è un'informazione decisamente più diretta. E lui mi diceva la situazione è veramente terribile e che quella, secondo lui, è una guerra culturale. Qui, insomma, mi sono posta veramente allora tante domande, perché quello che pensiamo noi è che non sia una guerra né culturale né religiosa, ma che sia solo, si fa per dire solo, insomma, ma che sia una guerra politica e economica. In quanto la posizione geografica della Siria, sapete dov'è, con i gasdotti, Russia, Iran, eccetera, eccetera. Non sto qui a spiegare, anche perché non ne sarei capace. Questa persona che mi solleva questa sua opinione e mi fa riflettere, che significa guerra culturale? Allora abbiamo sbagliato tutto. Cioè, davvero esistono le guerre perché io ho una cultura diversa dalla tua? Ma dunque la difficoltà nel dialogare con questa persona era sicuramente la lingua, cioè nel senso che lui si esprimeva in un italiano molto semplificato, con un linguaggio eterodosso, quindi per me era un po' incomprensibile, devo dire. Però è una riflessione che questo signore mi ha fatto fare. Quindi uscendo un po' da quelle logiche alle quali siamo abituati dai nostri media. Quindi in Siria, guerra culturale o guerra economico-politica? La verità è che stanno morendo civili, stanno morendo bambini, molti sono i profughi che scappano da quella che era una terra straordinaria. Oggettivamente la rinascita e la fine della guerra in Siria la vedo parecchio lontana, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni, anche queste se sono vere, del grandissimo e meritissimo presidente Trump, il quale via Twitter praticamente dichiara guerra alla Russia. Ora, immaginate voi, è vero che oggi le guerre si combattono in maniera diversa rispetto alle guerre passate. Sono cambiate le armi, ma di lì a dichiarare guerra con un Twitter, una persona che detiene il potere mondiale praticamente in mano, c'è da rabbrividire. Caro popolo di Barabba, mi ci metto anch'io, c'è veramente da rabbrividire. Un'altra riflessione, stando sempre in tema di guerra, e questa è una riflessione tosta, tosta perché tocca un argomento per me particolarmente ostico. Ieri sera ho visto un programma in televisione, un po' tardino, questi programmi così interessanti li danno sempre in una fascia improponibile, dove si parlava della guerra dei Rohingya e in India. Una suora, Suor Caterina, che tutti noi conosciamo perché è quella suora che è andata, mi sembra, al Festival di Sanremo, credo al Festival di Sanremo, è andata là per vedere realmente com'è la situazione. Con un fotoreporter, chiaramente, con un reporter, e hanno intervistato le donne, perché c'erano rimaste solo donne, quelle poche. È davvero confessioni da brivido, da dire, ma quali menti umane possono partorire gesti così cruenti, così crudeli? Ma non si possono chiamare neanche bestie, perché le bestie non arrivano a tanto, non saprei definire. È stata fatta una domanda a Suor Cristina alla fine di questo servizio. È una domanda che io mi pongo da quando ero un adolescente, alla quale ancora non sono riuscita a dare una risposta. Io sono molto limitata, ho tanti limiti e le risposte non ce l'ho, non riesco a darle, soprattutto su questo tema. La domanda era questa, ma Suor Cristina, dov'è Dio in tutto questo? Potremmo starci dei mesi qui a parlare di questo argomento, però mi fermo qui e lo dico anch'io, dov'è Dio in tutto questo? E con questo, cari amici, caro popolo di Barabba, vi saluto, spero, ma qualche volta telefonate oppure interpellate Radio Big per poter fare anche delle riflessioni insieme. Comunque vi saluto, vi abbraccio e alla prossima.